La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 105. Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni di trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. L'articolo 105 serve a specificare le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura. La magistratura è un ordine autonomo e indipendente. Lo stabilisce in maniera chiara l'articolo 101, lo ribadisce in maniera chiarissima l'articolo 104 ed è l'articolo 104 che individua il vertice della magistratura nel Consiglio Superiore. Il Consiglio Superiore della Magistratura, che è un organo di autogoverno, cioè è l'organo che disciplina l'attività dei magistrati, ma è eletto dagli stessi magistrati, garanzia massima di indipendenza, perché il Consiglio Superiore della Magistratura è composto per 2/3 da magistrati. Ecco allora che affidare a quest'organo di autogoverno la gestione della magistratura significa garantirne al massimo l'indipendenza, soprattutto dal governo. L'articolo 105 specifica le funzioni del Consiglio Superiore, che sono assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Emerge in maniera limpida. È tutta la carriera del magistrato che deve essere disciplinata e regolata dall'organo di autogoverno. In questo modo si garantisce la totale autonomia, perché sono gli stessi magistrati a stabilire le regole per diventare magistrati. Ecco allora che in ogni momento della carriera, assunzione, assegnazione, trasferimento, promozione, ma anche sanzioni disciplinari, la competenza è del Consiglio Superiore, in maniera che si evitano interferenze esterne. Oh, yes.